a questa nave che va controvento, perché chi sale sia felice e contento, a chi è convinto di aver fatto centro, ma nel bersaglio non sa che c'è dentro. Oh! Sarà un giorno migliore.